cielo che c'è. E se potessi tirare giù quel po' di luna con naso in su, in un sacchetto la metterei e poi, nonostante tutto tu lo sai, te la regalerei. Un amore che sia un po'